Thank you.

vuol dirvi? Prevenirvi volli una gioia improvvisa. Una cosa? Dicesti sì, o signora? Andremo a voi vedesse. E vieni, aspetta, andremo. Questo palpito si attama in pace, senza desistere più non potrei. Ma sangue in vena, ma il lido amato, devo uccidere, poi lo nuovo. Scorda l'affanno, donna volata, a me perdona il genitor. Io ti perdoni, Dario, son io, ma solo amor per dire in te. L'uomo debba l'angel mio, mai più di dirmi potrà da te. ricompensa avrai. Ma tu sa mio, di più non lo cerrarmi troppo rimorso. la reina Mirnella, dei vive la Maria, la strazia si terribili, qui non mi trasa il Dio, qui non mi trasa il Dio. Magità, insolito vigore.